sense of our common dangers. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Tutti furono scannati, sbudellati da quegli assassini. Ci salvammo solo io e mia sorella Carolina. Ve lo ricordate il piccolo grande uomo, Dustin Hoffman, la rivincita degli indiani a Hollywood, la storia di un uomo che fa delle scelte stravaganti, particolari, diverse da quelle prevedibili. Per esempio, pur essendo bianco, decide di diventare indiano, di vivere con gli indiani e di fare amicizia, anzi di innamorarsi della vita degli indiani in tutte le sue stranezze, compreso uno dei personaggi più straordinari di quel film di Arthur Penn, che si chiamava L'indiano contrario, che era quello che faceva tutte le cose al contrario: camminava all'indietro, galoppava a cavallo sedendosi, guardando il sedere e la coda del cavallo, e poi diceva sì quando voleva dire no e viceversa. Ebbene, anche la politica americana, secondo me, ha trovato, ma forse l'aveva già trovato un pezzo, il suo indiano contrario. Si chiama Joe Lieberman, non a caso era uno che era prima democratico, poi repubblicano, adesso è indipendente, ma poi domani chissà. Fece la corsa con Gore come vicepresidente in quel ticket sconfitto tra molte polemiche da George W. Bush nel 2000, e adesso da indipendente è uno che ha garantito il sostegno a Obama e alle iniziative della sua amministrazione, ma poi da contrario naturalmente questo sostegno non glielo dà, ed è quello esattamente che è successo nelle ultime ore a Washington. And then I'm afraid we'll end up costing the taxpayers a lot of money, like the so-called public option, so that part I'm still against. Ovvero, sì, è vero, ho votato in favore dell'inizio del dibattito al Senato perché si discuta di questa benedetta riforma della sanità, ma questo poi non vuol dire che voterò la riforma della sanità, se no che indiano contrario sono. E tra l'altro di indiani contrari ce ne potrebbero essere altri due o tre nel Senato, nella maggioranza del risicatissima, quei 60 voti su 100 di cui ha bisogno dei democratici al Senato, e quindi tutto potrebbe complicarsi maledettamente. Questa è la storia, è questione di prezzo, è questione di qualcosa in cambio, è questione di concessioni, è quello che è ciò che in queste ore sta cercando di capire Harry Reid, ovvero il capo del Senato che sta investigando per conto di Obama in vista di un dibattito ufficiale che avrà inizio lunedì prossimo. Dal 30 novembre tutta l'attenzione della politica americana si concentra su Washington e su questa epocale battaglia, su questo dibattito in cui, come dire, questi voti servono. Ci sono non più di un paio di repubblicani disposti a parlare, non dico a sostenere il progetto Obama, quindi vanno guadagnati tutti e 60 i voti disponibili, 58 più 2 indipendenti, compreso quello di Lieberman, che come avete appena sentito ha detto: secondo me l'opzione pubblica è una stupidaggine, e lui sarà stubborn, dice, sarà testardo su questo, non la voto neanche morto, ha detto a più riprese. Non vi aspettate che anche con qualche aggiustamento io sia in favore della partecipazione dello Stato alla offerta, no, di assicurazioni sanitarie. Secondo lui il rischio è fiscale, in sostanza non vuole che i cittadini si trovino a pagare eventuali eccedenze nei rimborsi assicurativi, destinati a suo parere prima o poi a trasformarsi in nuove tasse. È veramente la madre di tutte le battaglie dell'amministrazione Obama, e come detto mancano ormai soltanto 5 giorni all'inizio del suo scontro finale. Primo piano. Will likely call for between 30,000 to 40,000 additional U.S. troops and several thousand NATO troops. Aveva detto Obama e i suoi, Rahm Emanuel e Robert Gibbs, hanno detto: guardate, non permetteremo che ci siano indiscrezioni sulle decisioni del presidente, di quello che si chiama il suo consiglio di guerra. Infatti le indiscrezioni ci sono state immediatamente. nella notte si è tenuto questo ennesimo, il decimo incontro di tutti coloro che hanno voce in capitolo alle scelte americane quanto alla spedizione medio orientale, in particolare in Afghanistan, in particolare in relazione all'incremento di truppe. Come sapete, tre opzioni sul tavolo: un'opzione sostenuta dal vicepresidente Biden per un piccolo incremento di truppe, solo 10.000 uomini, solo un incremento nel numero di attacchi aerei e l'invio di soldati solo destinati all'addestramento dell'esercito afghano. Un'ipotesi mediana, quella sostenuta da Robert Gates e dal segretario di Stato Hillary Clinton: 20-35.000 uomini, minore impiego di addestratori, rinforzi nelle province garantiti, e il costo tra l'altro 25-30 milioni di dollari, miliardi di dollari in più l'anno, e 40.000 uomini invece la scelta caldeggiata dal generale McChrystal e in genere dal Pentagono. Ebbene, le indiscrezioni vogliono che Obama abbia scelto proprio per l'ipotesi mediana, quindi probabilmente dovrebbero essere 30.000 circa i rinforzi che il presidente invierà in Afghanistan. Il quotidiano inglese Daily Telegraph ha rotto gli indugi e ha già titolato questa mattina su questa cifra. Poi è trapelato che il 26 novembre, ovvero il giorno del ringraziamento, sarebbe stato il giorno nel quale Barack Obama avrebbe comunicato agli americani la sua decisione, la sua scelta, ma poi invece una seconda indiscrezione ha spiegato che forse Barack Obama intende lasciar passare tranquillamente il giorno del ringraziamento agli americani, che in quel giorno appunto si strafogano di tacchino e di partite di football in televisione, poi in prospettiva del Black Friday, no? Il giorno dopo vanno a spendere tutti i soldi che hanno nei futuri regali di Natale, il famoso Black Friday e la shopping spree, la follia per gli acquisti. E sembrerebbe ora che alle ore 20 di Washington, le 2 del mattino in Italia, del 2 dicembre in prime time, questo scrive Politico, che è molto ben informato al riguardo, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama annuncerà la propria decisione sull'Afghanistan, e la decisione sarà appunto di un incremento di circa 30.000 uomini da inviare sul fronte medio orientale. आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले है, आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले है, नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है, निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा अरे कच्चा कच्चा छोटा No, no, non siamo diventati matti, non abbiamo deciso di sposare promozionalmente la causa di Bollywood. Facciamo cronache americane, si chiama Buongiorno America. Di fatto gli americani questa mattina non sentono parlare d'altro, non sentono chiedersi d'altro che se avete un vestito d'oro, anzi a tinte arcobaleno nell'armadio, è il momento di tirarlo fuori. Se avete uno smoking, spazzolatelo senza a patto, senza sempre a patto di avere questo cartoncino cartoncino, prezioso cartoncino color avorio con sigillo presidenziale, che è stato recapitato una settimana fa a 400 eletti, coloro che parteciperanno a questa festa straordinaria. Questa volta Michel ha fatto le cose in grande, perché arriva il premier indiano Singh e ci sarà alla Casa Bianca una vera e propria festa in stile Bollywood, con tanto di chef che si produrrà in un curry per Barack, i suoi ospiti indiani e i molti VIP convenuti. Secondo me dare il curry agli indiani non è proprio un'ideona, ma come dire, come se facessero gli spaghetti alla nostra rappresentanza. Insomma, io avrei fatto qualcos'altro, ma non sta certo a noi sindacare. Menù, fiori, porcellane, musica, abiti da sera, ma anche diplomazia internazionale e di una qualità piuttosto sofisticata, perché questa non è certamente solo una festa mondana, è anche, come dire, un memento inviato da chi conta in India alla Casa Bianca di Obama, per dirgli: caro presidente, ricordati che ci siamo anche noi, siamo molto molto molto emergenti anche noi, molto molto importanti in campo manufatturiero, in campo di nuove produzioni, di nuove tecnologie. L'India è sì seconda alla Cina, ma è seconda, non è che non esiste, e evidentemente queste partnership sempre più spinte, sempre più intense che gli Stati Uniti stanno stabilendo su diversi piani con la Cina non sono viste perfettamente di buon occhio in India. Di conseguenza va in scena un incontro che potrà avere anche aspetti piuttosto spinosi, come i discorsi sul Kashmir, i rapporti con il Pakistan, un test nucleare che sembra prodotto apposta per ricordare agli americani che c'è una potenza nucleare come l'India pronta, attrezzata a intervenire. Dipende bene in quale direzione il suo intervento sarà prodotto. E poi ci sarà appunto il Gran Mondo, molta Hollywood tra l'altro parteciperà a questo appuntamento in una tenda allestita sul Prato Sud, e appunto con la richiesta di non vestire il bianco, che è segno di lutto per gli indiani. Ci sarà Bobby Jindal, il governatore repubblicano della Louisiana, autore del disastroso discorso di risposta allo Stato dell'Unione di Obama. Ci sarà il medico da CNN Sanjay Gupta. Insomma, l'India che conta in America, la Hollywood che vuole connettersi e trovare quattrini a Bollywood, e il tentativo così di rinfrescare un po' un matrimonio appassito. Noi lo abbiamo fatto, abbiamo pagato una cifra ragguardevole che purtroppo nessuno ci rimborserà, ma la spesa valeva, e se valeva già solo la copertina, francamente la troviamo piuttosto eccitante. Insomma, abbiamo trovato finalmente, con una settimana di ritardo circa sui nostri colleghi americani, una copia di Going Rogue, il libro di Sarah Palin, An American Life, una vita americana. Lo abbiamo comprato per noi, ma anche per voi, per raccontarvelo in anteprima. Ma lo stiamo leggendo, lo troviamo anche, inutile ve lo dico, piuttosto divertente, diabolicamente divertente. Pensate che si apre con una cartina il libro, dietro la copertina con la foto della radiosa Sara c'è una cartina del mondo visto dall'Alaska, e questa è già una premessa che non scherza affatto. Pensiamo di farvi cosa gradita, o forse di farvi venire dei nervi tremendi, leggendovi così le prime righe del libro, per come l'abbiamo potute tradurre. Dunque, all'inizio del primo capitolo c'è una dedica, cioè dopo la dedica c'è una citazione che siamo subito andati poi a documentare. La citazione dice: io non credo che Dio ci abbia messo sulla terra per essere ordinari. E questa citazione è firmata da Lou Holtz. Chi è Lou Holtz? È un anziano signore di 74-75 anni, che è stato prima un grande coach del football americano, soprattutto quello universitario, quello quello dei giovani, e poi è diventato un motivational speaker, cioè uno che parla ai convenuti per offrire loro soluzioni esistenziali, professionali, per indicare strade da percorrere. E questa è proprio l'aria che tira nel libro di Sarah Palin, non tanto che lei voglia insegnare, ma lei come prodotto di un mondo, di un'America di questo genere. Dunque questo primo capitolo si intitola, non a caso, nel modo più prevedibile, L'ultima frontiera. Sentite un po'. Agosto 2008, mi trovo alla fiera statale dell'Alaska, sullo sfondo delle montagne Talkeetna, e con la prima leggera neve che cominciava a coprire il Pioneer Peak, respirai profondamente quel profumo che mescola l'aroma di tutte le piccole città americane con gli intensi profluvi dell'ultima frontiera. Zucchero filato, hot dog giganteschi, tacos al merluzzo e salsicce di cervo, musica di banjo suonata sul palco blu, quadri di balene, cesti intrecciati dagli esquimesi, verdure di dimensioni record venute su sotto il sole di mezzanotte. Facendomi strada in mezzo al fiume di gente con al collo Trig, il nostro figlio di 4 mesi, facevo lo zigzag da una bancarella all'altra, da un artigiano del legno ai raccoglitori di miele, a quelli che vendono vino di bacche fatto in casa. Bristol e Willow, le nostre ragazze ormai teenager, stavano dietro in gruppo con i loro amici, tutti raggruppati, sempre a ridere, mentre facevano partire raffiche di SMS. Piper, 7 anni, la mia spalla fissa dal giorno in cui è nata, stava attaccata al mio fianco, mangiucchiando nuvolette di zucchero, il premio che si era guadagnata per la pazienza con cui aveva sopportato il mio andare avanti a singhiozzo in mezzo alla folla. In linea di massima, lei è a suo agio a guardarmi mentre faccio le foto ricordo o ad ascoltare le chiacchiere casuali che concedo con piacere a chi incontro e che considero parte integrante del mio lavoro in quanto governatore dello Stato. Di tanto in tanto mi liberavo un braccio dalla stretta del piccolino per stringere la mano a chi mi voleva salutare. «Ehi Sara, non te la perdi mai la fiera, eh? Oh Madonna, è lui il nuovo arrivato, fammelo guardare! Sara, la benzina costa troppo cara! Governatore, quando ricominciano a tirare su petrolio?» E non è detto che presto vi conceda qualche altro estrattuccio da Going Rogue, il libro con il quale, secondo me, Sarah Palin, guardate, è già in campagna elettorale. Secondo me quel pullman che gira per l'America con sopra la sua faccia non vuole soltanto vendere libri, vuole vendere qualcosa di molto più grosso. Ma noi lo seguiremo qui ogni mattina americana e ora di pranzo italiana. Buongiorno America, dove ci sono io, Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Roberto Scaltritti. La mail è buongiornoamerica@radio24.it, la pagina Facebook si chiama Redazione Jefferson 3, la replica va dopo mezzanotte, la diretta va dopo 1:30 qui su Radio 24. State tutti benissimo.